Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Cari signori, qui c'è un Oscar Giannino che sta combattendo con un computer e per ora il risultato è 1-1. No, 1-0 per il computer, direi, e non c'è neanche la palla a centro, cioè la palla mi resta in mano, per così dire. Ciao Oscar. Però detto questo, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano in questo primo luglio, accaldatissimo. È vero. Oddio, a giudicare dal primo santo in ordine alfabetico del giorno è un pessimo presagio per la partita di domani sera, ma vedrete che tutto si raddrizza invece, perché Sant'Adolfo, non vorrei dire, Sant'Adolfo, temo che non tifi molto per l'Italia. No. Però detto tutto questo, tanti altri santi oggi, mi sta molto simpatico un beato, perché in realtà oggi più che i santi, perché il beato è Rosmini, e Rosmini è un grandissimo pensatore liberale cattolico dell'Ottocento, quindi mi sta simpatico quello, ma tra i giorni precedenti nella storia che lasciano un segno, ohimè, nel 2012, proprio oggi, primo luglio, c'era la finale dell'Europeo, Italia-Spagna, finita con la Spagna, che ce le sono 4-0. Beh, ma noi giochiamo domani, il 2, esatto, e quindi anche in questo caso lo evochiamo, ma siamo salvi. E del resto, come si vede, i risultati possono cambiare. Vedi il sondaggio su Repubblica di oggi che fa, eh? Sì, che dice che il Movimento 5 Stelle in questo momento, secondo il Vogliamanti e secondo questo sondaggio Demos, è la forza politica che riscuote più il gradimento degli italiani, ha superato la cosa incredibile. E che, voglio dire, parte il risultato con cui verrebbe accreditato più vantaggio rispetto al PD nel ballottaggio, ma tutti gli altri avrebbero risultati. Sì, cioè Movimento 5 Stelle, PD, il resto, come direbbe un celebre, tutto il resto è noia, ma non è un'offesa, no, è una citazione. Però ecco, i partiti però riflettano su quel sondaggio, perché la destra tutta sommata non arriva al 15%, che è una effettivamente, cosa... Effettivamente, e infatti Berlusconi deve capire come fare, come cambiare, pare che voglia togliere Forza Italia e mettere l'altra Italia. Beh, a me, questo da ottobre. Ex Lamalfiano, quella formula che fu coniata da Ugo La Malfa, vederla utilizzata così qualche brivido mi fa venire, però brivido. Naturalmente non voglio dire altro, però mi ha fatto molto sorridere la, come si dice, la professionalità di Alfredo Messina, presidente di Mediaset, che adesso viene indicato come uno dei nuovi vertici del partito, che usa immediatamente per far capire come è in linea, dice: no, ma fu Prodi a consigliare Silvio di assumermi all'azienda, quindi Nazareno destino, all'ennesima, capisci? Potenza, proprio. Ecco, vedi però questa, la misura lettiana con cui si distinguono, lettiana nel senso di Gianni Letta, hai ragione, come si distinguono rispetto, voglio dire, alla durezza, della sguaiatezza, delle polemiche, ce l'ha nel destino Alfredo Messina. Sì, comunque parliamo di politica, se volete. Allora, parleremo, che si mangia? No, parleremo invece anche di un tema che è molto caro agli italiani, la questione della sicurezza, la questione delle migrazioni, dei migranti, dell'accoglienza, di dove misurare e mettere la linea tra l'accoglienza e garantire la sicurezza, perché oggi avremo dei dati, ci sono dei dati, siamo sempre 2-0 intanto per il computer contro Oscar Giannino, sì, ha segnato in contropiede il computer, proprio in contropiede. 2-0. Ci sono dei dati della Fondazione David Hume, avremo Luca Ricolfi, politologo, sociologo, editorialista del Sole 24 Ore, a raccontarceli, che Oscar mette in relazione le migrazioni e i reati. Sì. Perché si dice sempre Ricolfi, populismi. È andato, ma... dice, ma visto che questa cosa viene utilizzata come un argomento contro chi vuole regolamentazioni più severe, andiamo a vedere qual è il vero tasso di reati per... tra italiani e immigrati e poi per comunità di immigrati in Anche Italia. In tutta Europa, cioè tra nativi, sì. Quindi in Grecia, in Olanda, e... immigrati. E in media in Europa gli immigrati delinquono, il tasso di criminalità è 4 volte superiore rispetto a quello dei nativi. In Italia è 6 volte superiore, ci sono paesi, la Grecia, dove è 12 volte superiore. Paradossalmente, vedi, in Gran Bretagna invece è tra i parametri più bassi l'incidenza della criminalità. Eppure hanno votato anche pensando, oddio, arrivano gli stranieri, la sicurezza. Forse volevano difendere il tasso più basso. No, non è vero, questa è una pietosa menzogna. È che, come si dimostra, bisognerebbe avere più attenzione ai dati reali, ma come sappiamo il percepito è figlio della manipolazione di queste date, no? Sì. Però in questo caso bisogna rendere onore al professor Ricolfi, perché, per così dire, concentrandosi sui dati reali, smentisce l'accusa di chi dice non è vero che il tasso è più alto, il tasso di delinquenza. Eh no, è più alto. È più alto. Poi sulle ragioni c'è da vedere, perché sono meno integrati, perché meno reddito, eccetera, quello che volete, però intanto è più elevato il tasso di delinquenza. Sì, laddove c'è l'immigrazione, il tasso di incidenza c'è. Tra l'altro ne parleremo, e se volete anche 800240024, parleremo anche di quello che è successo tra Sesto Fiorentino e Firenze, no? Dove tutti i giornali oggi, secondo me con un po' di comprensibile ritardo, ma anche no, hanno dato spazio a questa rivolta dei cinesi che si sono... questi sono anche gli audio, quello che è successo, una notte di guerriglia, arresti, sì, perché si sono ribellati a dei controlli dell'ASL. Sì, controlli di sicurezza e sanitari nelle aziende che sono di proprietà dei cinesi, dove dormono, poi eccetera, eccetera. Perché secondo me continua questa vicenda? Se pensi da quanti anni sono a Prato, questa vicenda va in corso. Tra l'altro stamattina è in corso un'altra operazione a Prato, ed è singolare, perché è un'operazione in cui nel mirino delle forze dell'ordine italiane sono finite ronde cinesi contro ronde di magrebini e marocchini, perché l'accusa dei cinesi a questo punto è che sarebbero le altre comunità a razziare nelle aziende dei cinesi. Ecco, questi pezzi di sovranità esercitati in proprio in Italia, pensa da quanti anni va avanti la storia di Prato. Eppure a Sesto Fiorentino, da cui venivano queste sonoro che abbiamo mandato in onda, siamo ancora a quel punto lì. Anzi, bisogna mandare, tutti avranno visto forse, il carabiniere cinese a trattare con... C'è questa foto straordinaria di un carabiniere, chiaramente alle fattezze cinesi, probabilmente, quindi seconda generazione, probabilmente saprà... però dal mandarino l'ha preso dalla mamma, trattare con che è giusto avere anche i mediatori sociali con delle forze dell'ordine, però dall'idea di due ordinamenti che trattano, non so come dire, ecco, non una legge che è rispettata. Eh sì, qualcuno accusa, a volte queste comunità creano anche delle sorte di, come dire, piccoli stati nello Stato, no? Eh sì, ma da tanti anni va avanti questa cosa, perché la cosa di Prato è andata avanti per tanti anni, e per tanti anni si è consentito in effetti che le leggi di sicurezza, di sanità nelle aziende, eccetera, eccetera, beh, non fossero rispettate a questo punto. Allora, il numero appunto è quello. Se Oscar, vogliamo sentire Beppe Grillo che dice della legge elettorale, visto che abbiamo parlato e c'è anche il tema politico sullo sfondo, sai cosa dice Beppe Grillo? Cambiare o no l'Italicum? Senti qui. Una legge elettorale così non l'ha fatta neanche Acerbi al tempo del fascismo, che c'era un premio di maggioranza inferiore a questo. La democrazia non c'è più. Acerbo, Acerbi è un difensore del Milan e del Sassuolo adesso. Sì, no, è la dichiarazione devi dirlo, perché è certo. La sua importanza. No, perché l'accusa è sui giornali, ma il Movimento 5 Stelle ha cambiato la linea, e cioè l'Italicum ora sta bene perché visti i sondaggi rischiano di vincere se dovesse andare a votare oggi, no? Dal Movimento 5 Stelle dico: non è vero, noi non abbiamo cambiato linea, è Renzi che cambia la linea e vuole ora cambiare l'Italia. Come al solito in Italia il dibattito elettorale, il dibattito politico. Resta il fatto però che chi l'ha fatta davvero, cioè la maggioranza, il PD e il suo leader, sono loro che vogliono cambiare idea, perché hanno dubbi che non venga più. Il che ci conferma e ci consegna, cari ascoltatori, il non troppo elevato pensiero che, come vedete, le leggi elettorali si fanno non con l'idea dei fini generali da perseguire, la stabilità, il governo presto, ma si fanno con l'idea che servono a fare vincere la propria parte. Tant'è vero che quando qualche elezione dopo e prima di mettere a esperimento la legge nazionale si capisce che c'è paura che non vinci più, ecco che a quel punto la vuoi cambiare. Poi molti di voi pensano che bisogna delegare ai partiti, perché i partiti perseguono l'interesse generale. È vero. Ci chiama Federico da Torino. Buongiorno Federico. Signor Mila, buongiorno, io vi ascolto tutti i giorni. Prego, eccoci qua. Grazie, niente, volevo semplicemente intervenire sull'argomento dell'immigrazione. Sì. Io vivo a Torino, quindi una città grossa, e posso constatare che comunque gli immigrati che vengono, una buona parte di questi immigrati che vengono, comunque sono abbandonati a se stessi, perché è bello sentire dei violenze, salvo vite umane, però poi non c'è un programma di inserimento, di studio, di scuola, niente. Cioè questa gente viene qua, dopo un po' vengono lasciati liberi, senza lavoro, senza donne, senza casa, senza niente, e a volte vengono anche portati a delinquere, a rubare, eccetera. Però io dico facciamone venire di meno, ma quei pochi che facciamo venire seguiamoli e seguiamo tutto il percorso per poterli inserire, altrimenti veramente le città sono in sicurezza, cioè manca sicurezza, perché comunque questa gente vuole vivere come viviamo noi, senza i mezzi, senza la casa, senza niente. Le posso fare una domanda? Lei vive a Torino, no? Capito bene? Sì, secondo lei, domanda concreta, ma questa non solo per Torino, vale per tutte le città italiane, dove ci sono parti delle città con insediamenti percentuali di comunità di immigrati, secondo me, troppo elevate rispetto al totale. Sì. Io sono per distribuirli nelle città. No? Secondo lei, la parte della vecchia ex Porta Palazzo e da quelle parti di che è diventata negli ultimi 10 anni un insediamento di immigrati maghrebini ad altissima percentuale, secondo lei ce ne sono troppi lì in percentuale, andrebbero distribuiti meglio, oppure lei non è convinto che questo sia un problema? No, ha ragione lei invece, perfettamente ha ragione, ce ne sono troppi e troppa gente che non fa niente tutto il giorno, questa gente che non fa niente tutto il giorno, no, come diceva noia, prima. Non impara un tubo, bisogna, ci vuole una politica, non puoi far venire cani e porci, rovini l'Italia in questo modo, la stiamo rovinando da nord a sud, non è questione di razzismo, bisogna farne venire di meno e quei pochi seguirli, distribuirli meglio, come dice Giannino. No, ma perché l'incidenza poi della criminalità, ma Luca Ricolfi poi ce lo spiegherà perché la ricerca l'hanno fatta bene, sicuramente come dicevi Oscar è anche legato al fatto che molti si ritrovano ai margini della società e allora l'unica prospettiva rischia per alcuni, non vorrebbero magari in principio, ma poi rischia essere la delinquere, ecco. Fare come i partiti, rubare. Va bene. Secondo me, come siamo col computer? 2-1? Forse ce ne vuole uno immigrato un po' più nuovo di questo, che è un pezzo di antiquariato. Hai segnato almeno un 2-1, hai accorciato le distanze. No, siamo, diciamo, punti, no, va bene. Spero che sia il risultato che si beccano i tedeschi dall'Italia domani sera, ma per il momento mi pare difficile. Dai, Marco da Firenze ci chiama, buongiorno Marco. Buongiorno Alessandro, buongiorno Oscar. Dica. Vi chiamavo per la questione dell'Usman Noro, no? Quindi del pezzo di territorio fra Sesto Celentino e Firenze. Niente, la situazione è quella che avete raccontato. La questione però è che da 20 anni questo è il primo intervento che viene fatto di questo tipo con controlli. E fra l'altro, non so se conoscete, ma c'è un prete della zona di San Donnino che è stato poi il primo paese, diciamo così, in cui si è insediata la comunità cinese, Don Momigli, che ieri ha preso una posizione abbastanza importante, cioè vale a dire i controlli benissimo, però poi alla fine abbiamo lasciato la comunità cinese di seconda e terza generazione di svilupparsi in un certo modo. Quindi è un problema prettamente culturale. Detto questo, i controlli vanno bene perché poi, vi ripeto, questa è una zona industriale che negli ultimi 20 anni ha visto la sparizione delle imprese artigiane e commerciali gestite da italiani a favore di queste persone. Sì, quindi dice, effetti è una repubblica per conto proprio, insomma, perché poi la difficoltà, questi lavorano la notte, diciamo, no? Una comunità così. Magari una proprio, ma è davvero così impenetrabile, Marco, lei dice, allora, cioè, assolutamente, allora, diciamo che soprattutto nelle ore notturne lì si continua a lavorare, si continua a dormire. Nessuno ha fatto controlli per 20 anni. Chiaramente tanti imprenditori italiani hanno fatto questa situazione, gli ha fatto gioco, perché comunque, come dire, li hanno messi sotto con prezzi bassissimi e quindi il territorio, invece di fare di queste persone dei partner, alla fine li ha trattati all'inizio come fornitori schiavizzati, alla fine queste persone gli hanno portato del lavoro, perché chiaramente non sono... Sì. Sono persone anche intelligenti. No, va bene, grazie Marco. Poi la questione... Sì, no, aspetti, si fermi perché altrimenti non diamo spazio. C'è anche Francesco da Verona che ci chiama, sentiamo cosa ha da dirci, Francesco. Sì, buongiorno ragazzi, buongiorno, vi ascolto sempre. Niente, io volevo intervenire riportando un po' la mia esperienza. Sono un dentista di 27 anni, faccio parte di un'associazione di volontari e sono andato qua qualche giorno fa a fare una visita in un centro dei rifugiati dove c'erano circa una... un po' di sociali, sì. E qual è la loro condizione. Erano arrivati da circa una settimana, infatti erano tutti tranquillissimi, per carità, bocche non eccezionali, e mi ha raccontato che stanno parcheggiati più o meno un anno e mezzo in questi centri in attesa di capire se avranno lo status di rifugiato. Eh sì, questa è la giustizia, oppure... purtroppo molto lenta. E quindi? E quindi appunto mi sono un po' messo nei loro panni. Non hanno servizi di integrazione, fanno sì dei corsi però per imparare l'italiano, però mi ha detto che non sono di alta qualità. Sì. L'unica cosa che ha fatto il mio comune, come dice un problema molto interessante, dei lavori socialmente utili in cambio di dell'abbonamento dell'autobus. Cioè lei dice, insomma, per capire Francesco, purtroppo Oscar, queste persone stanno spesso un anno e mezzo nelle more di capire che cosa succederà nel loro destino e che cosa possono fare, insomma sono portati anche dal sistema in qualche modo, in alcuni casi ad arrangiarsi. Il problema è che non è giusto in sé, non possiamo accettare questa come giustificazione, resta il fatto che può succedere questo. Però, questo sì. Ripeto, questo poi è una cosa diversa, ulteriore, rispetto al fatto che comunque, non avendo un modello di integrazione, avendo abbandonato, lo Stato si occupa del primo fronte, salvare dal Mediterraneo, cioè, prendiamo quelli che hanno queste grandi capacità, riescono a nuotare, cioè, questi sono gli immigrati che selezioniamo. Detto questo, poi li demandano alle strutture territoriali, dei CIA, scandali, cooperative, le sappiamo, e poi però buttano tutto sui comuni. Questo sì. È il modello italiano. Di lì il concentramento in alcune parti delle città, dove a quel punto il tasso di delinquenza diventa un problema vero, perché si manifestano le reti criminali legate all'immigrazione, perché ci sono sia quella dei magrebini, quella dei nigeriani, lasciamo perdere, è una vera e propria mafia, e così via. Allora, come vedi, il problema non è solo quello, il ritardo italiano. Secondo me c'è proprio la mancanza, nessuno ci ha messo bene la testa su questo modello, e i poveri comuni da soli, con i soldi che hanno, dicevo ascoltatore prima, ma non li posso dire, ho capito, io mi metto nei panni di un sindaco e non è così facile. No. Allora, tra poco avremo Luca Ricolfi, sociologo, ci dirà i dati di questa della Fondazione David Hume e di questa ricerca su 28 paesi europei, ricordiamo, l'incidenza della criminalità legata all'immigrazione. E poi avremo anche il sindaco di Sesto Fiorentino, tra poco. Sono le 8:40 minuti, caro Oscar. Allora, eccoci qua. Ma lo sai di quanto è cresciuto il debito pubblico rispetto a ieri, quando l'abbiamo detto ai nostri ascoltatori? Ieri in 5 milioni in 40 minuti. Ecco, e pensa che ieri, rispetto a ieri, quando oltre 2.250 miliardi, erano 292 milioni erotti e adesso sono 515 milioni erotti. Pensa, da un giorno all'altro, cari ascoltatori, vi siete beccati 230 milioni in più. Pensateci un secondo. Anzi, no, almeno che non ci pensate, perché ogni secondo aumenta, ma era solo per dirvelo, chiusa parentesi. Vabbè, capisci. No, ma giustamente ci dai questo contatore simpatico. Io ho fatto un appello che un giorno in questi 40 minuti di crescita del debito pubblico durante la nostra trasmissione, per quel giorno con la deroga vada in tasca a noi e poi offriremo un aperitivo a tutti gli ascoltatori. Oppure anche in tasca a una buona causa, non lo so. Esatto, ma sì, certo. Invece che allo Stato che dice che non gli bastano, cari ascoltatori, dicono che non gli basta, non gli basta mai. Capito, sono i cattivi gli altri che non consentono allo Stato di fare più debito. Guardate quanto è ogni momento in più. Comunque c'è questa interessantissima ricerca della Fondazione David Hume, dati elaborati che lo stesso professor Luca Ricolfi, che salutiamo, buongiorno professor Ricolfi, eccoci. Buongiorno. Qua. Lei stesso dice non sono facili da reperire, da mettere insieme, da aggregare, ma è molto interessante perché spesso si fa la domanda, e magari con un approccio cosiddetto populista, a dire gli immigrati portano il crimine. Beh, per la prima volta c'è una ricerca che mette 28 stati, 28 paesi dell'Unione Europea a dire vediamo qual è l'incidenza delle migrazioni sui crimini e che risultati come si possono sintetizzare questa ricerca, professore? Ma si sintetizzano dicendo che in media in Europa il tasso di criminalità relativa è superiore a 4, cioè la probabilità che un delitto sia commesso da un immigrato è circa 4 volte quella di un nativo. Poi però non si sintetizzano, perché lo spread dei tassi di criminalità relativi è amplissimo, si va da un paio di paesi, solo due, in cui il tasso è inferiore a 1, cioè in cui delinquono un po' di più i nativi, che sono l'Irlanda e la Lettonia, a un 12,5 della Grecia. Cioè, dove cioè gli immigrati incidono moltissimo lì in Grecia. 12 volte e mezzo di più dei nativi. Tra l'altro è il paese di Alba Dorata, non dimentichiamocelo. Esatto, l'Italia in questa classifica, possiamo dire, dopo la Grecia, la Croazia, la Bulgaria, Polonia, Malta, arriva appunto l'Italia, 6,3 è l'incidenza relativa in Italia, sopra la media che è 4, ricordiamo. Sì, soprattutto questo dato a me colpisce perché i paesi che noi consideriamo più comparabili all'Italia sono 4. Quando facciamo i confronti internazionali noi diciamo Regno Unito, sì, Francia, Germania e Spagna, no? Sono i classici termini di paragone. Ebbene, Spagna, Germania e Francia sono intorno a 3,5, 3,6, 3,7, cioè più o meno la metà dell'Italia. E il Regno Unito è appena 1,3, cioè sopra la soglia di 1, ma di pochissimo. Questo, cioè un paese... questo è singolare, tra l'altro, professore. Sa che lì, come ben sa, nella Brexit ha inciso, no, la presenza. Un impatto formidabile. Gli immigrati delinquono. Questo infatti è una cosa molto interessante, cioè... su questo secondo me hanno un po' ragione quanti dicono che la paura dell'immigrazione in parte è una percezione, ma non nel senso che non sia, secondo me lo sbaglio è di tipo logico, la paura per l'immigrazione è perfettamente giustificata, ma la distribuzione nello spazio di questa paura non riflette i dati oggettivi, perché in Inghilterra c'è sicuramente abbastanza paura, dietro il Brexit c'è anche questo, ma il tasso di criminalità relativo non è particolarmente alto. Quindi complessivamente c'è un problema. Poi però la sensibilità delle opinioni pubbliche non dipende soltanto dal dato oggettivo. Questo certo. Anzi, talora non è neanche correlato proprio, non voglio dire che non ci sia un fenomeno causale, ma neanche correlato, perché il problema è come si manipolano, si creano, si proiettano sullo schermo nazionale di un paese dei fenomeni che sono diversi da quelli reali. La politica è questa roba qua. Spesso... Sì, in realtà io sto facendo un lavoretto che probabilmente uscirà sul Sole per studiare la relazione tra la paura e la situazione oggettiva. E il risultato preliminare che posso anticiparvi è che la relazione c'è ed è quella che si aspetta, però è debole. Cioè non è che non c'è una relazione, ma è una relazione piuttosto debole. Cioè la paura dei canali di diffusione indipendenti dai dati di realtà. I dati di realtà incidono, ma non tantissimo, probabilmente incidono di più i media, i processi politici, eccetera. Comunque interessante, ripetiamo in sintesi, dati della Fondazione David Hume su 28 paesi europei, il tasso di criminalità relativo degli stranieri nella media di questi europei è 4 volte, cioè gli stranieri delinquono 4 volte di più dei nativi, in Grecia è 12,5 volte, in Croazia 8,7, Bulgaria 7,8, si scende, l'Italia è sopra media 6,3 e invece Regno Unito e poi Romania, Irlanda e Lettonia sono quelli dove invece c'è un'incidenza quasi nulla della migrazione. Professor Ricolfi, insieme a lei noi abbiamo chiamato il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, di Sinistra Italiana. Buongiorno sindaco. Buongiorno, grazie a voi di essere con noi, perché insomma ne parlavamo anche con Oscar Giannino, una notte, come dire, complicata. Come mai la situazione secondo lei è degenerata? Prima gli ascoltatori ci dicevano da 20 anni la situazione è stata lasciata così e poi si creano queste comunità nelle comunità poco integrate. È una lettura parziale sbagliata? No, indubbiamente c'è questo tema, diciamo, di un lungo periodo in cui la comunità cinese ha fatto comunità a parte. Devo dire che in questi ultimi anni sono stati fatti però interventi da una parte di dialogo tra le istituzioni e quella comunità e dall'altra di controlli sempre più stringenti sulle condizioni di lavoro, sulla salubrità dei luoghi di lavoro, sui diritti nei luoghi di lavoro, che sono una cosa imprescindibile per quanto mi concerne. Insomma, non possiamo pensare di non avere quel tipo di controlli e di non avere, diciamo, di avere zone franche sul territorio nel quale non si fanno i dovuti controlli dell'ASL, i dovuti controlli dell'Ispettorato del Lavoro. Questo è un elemento centrale. Accanto a quello, evidentemente, per cercare di risolvere i motivi profondi del malessere che è esploso da parte della comunità cinese con la rivolta di fatto dell'altra notte, dobbiamo anche essere capaci di portare avanti un dialogo, di rilanciare un dialogo tra le istituzioni, le forze dell'ordine e quella comunità. È evidente, le due cose si devono tenere insieme. Sì, certo, il dialogo è giusto, però sindaco, resta da capire se siano sacche di illegalità oppure no, cioè nel senso l'ASL fa bene a fare i controlli. Posso fare una domanda al sindaco? Quello che è avvenuto a Prato, credo di doverlo spiegare a voi perché state molto più vicini e lo conoscete da anni e anni, cioè a Prato, dopo tanti dibattiti con i piccoli imprenditori italiani, lì si trattava di una caduta dell'impresa, del fatto che loro compravano le aree, il classico sistema. Comprano le aree limitanee fino a controllare poi pezzi continui della superficie urbana di una città e così via, fino a esercitarvi una specie di controllo di sovranità alternativa a quella dell'ordinamento pubblico. Questo vale per la sicurezza, per la sanità, per le attività illecite, per tutto, perché è un modello. Cioè, Prato ce lo ha insegnato, è stato un errore fin dall'inizio consentirlo. Lei anche ci dice adesso, per anni è stato consentito. Le posso fare una domanda? Ma perché è stato consentito per anni? Perché questo non mi è chiaro. Per un senso di difficoltà, perché lo Stato non faceva abbastanza per loro, quindi tanto valeva, visto che non davano troppo fastidio, che si auto-organizzassero? Oppure per quale altra ragione? Ma guardi, non lo so. Credo sia stato un fenomeno che in parte è un po' sfuggito di mano. Però devo dire, soprattutto all'inizio, almeno per quanto riguarda diciamo, il territorio di Sesto Fiorentino, sono anni che questi controlli vengono fatti e che sono andati via via intensificandosi. E perché allora loro protestano dicendo adesso il così gran numero, dicendo questo Stato oramai viene solo a farci le multe e le ispezioni? Guardi, io credo che ci siano una serie di concause. Tra l'altro il controllo dell'ASL insieme ai carabinieri, che poi ha avuto l'esito diciamo di scatenare la rivolta, era stato un controllo che aveva avuto anche, mi dicono, esito positivo, cioè non c'era stata nessuna sanzione, nessuna illegalità rilevata. È evidente quindi che quella è stata un po' una miccia che ha fatto detonare un malcontento forte che c'è. Sicuramente influisce, questa è una mia riflessione, ma convalidata un po' da riflessioni fatte anche con alcuni membri della comunità cinese, anche la crisi economica e comincia a colpire anche il tessuto produttivo cinese, per così dire, insomma, il tipo di attività produttive che loro gestiscono, e che è cosa piuttosto nuova rispetto insomma alle loro dinamiche produttive ed economiche. Quindi questo sicuramente c'entra anche un elemento di insicurezza che loro percepiscono, perché sono spesso insomma sono talvolta oggetto di furti e di rapine. Sì, molti dicono, infatti stamattina l'operazione in corso a Prato riguarda proprio ronde cinesi contro i marocchini, quindi è una esatto. Non so, professor Ricolfi, ma nella ricerca che avete fatto nello studio c'è anche una parte relativa alle varie comunità o all'incidenza legata alle varie provenienze geografiche degli immigrati oppure no? Beh, guardi, è assolutamente impossibile fare una ricerca seria di questo tipo, perché c'è una, credo, volontaria, temo, decisione delle autorità pubbliche, ministeri degli interni, statistica, eccetera, di nascondere i dati. Cioè, per non creare, appena uno cerca di capire un po' disaggregatamente come sono i tassi di criminalità, appena comincia a chiedere la distinzione tra nativi e immigrati, non ottiene niente. Cioè, noi siamo diventati matti per costruire un indice che tra l'altro si riferisce al 2013 ed è frutto di tutta una serie di lavori di ricucitura. I dati che voi avete presentato non è che sono dati ufficiali, sono dati basati su analisi di fonti ufficiali che sono lacunosissime, non aggiornate. Io ho avuto in passato rapporti col Ministero dell'Interno italiano per ottenere dei dati, sono sempre stati difficilissimi, abbiamo sempre un'enorme difficoltà a ottenere dei dati disaggregati. Cioè, diciamo quindi, che no, mentre abbiamo il dato per comunità dei detenuti, che però non significa, perché ci perdiamo tutto l'iter processuale, eccetera, eccetera, per i detenuti ce l'abbiamo per altre ragioni. Su tutto il resto, Viminale come accentratore dei dati che vengono dal canale giudiziario e canale territoriale, su questo lei dice ha uno schermo dietro il quale si potrebbe pensare che ci sia una volontà politica. Capito bene? Sì, certo, la volontà, io ho avuto anche dei litigi telefonici con i rappresentanti dei governi dell'epoca, perché loro sostenevano che il tasso di criminalità criminalità in Italia diminuiva, i dati dicevano il contrario, allora si arrabbiavano quando noi, io lavoravo per la stampa, allora quando lo scrivevamo si arrabbiavano. C'è sicuramente la paura del potere politico di far sapere. È soprattutto il grande atteggiamento per cui i dati non devono costituire il fondamento della decisione. Vogliamo, italiana. Oscar, sentirlo anche Angelo Hu, che è un consigliere comunale a Campi Bisenzio, certo. Cinese di seconda generazione. Come sentito, si capisce dalla voce. Certo, sentito da Simone Spezia ieri a Effetto Giorno. La maggioranza delle persone che abitano e lavorano qui allo Smannora, a Sesto Fiorentino, a Campi Bisenzio, sono nuclei familiari, piccole fabbriche di persone che sono marito e moglie e raramente vi è la presenza di un dipendente. E quindi sono persone che hanno piccoli margini di guadagno, piccoli imprenditori che si vedono quotidianamente, e giustamente dico io, ci sono i controlli da parte della regione e vengono, però i controlli ci sono all'interno delle fabbriche, però da quello che loro ogni giorno vivono non ci sono i controlli nelle strade, gli scippi sono quotidiani, ogni giorno le persone, almeno una o due, dormono all'interno di capannoni, non perché ci debbano vivere, ma perché devono controllare affinché non arrivi qualcuno, apri il capannone e rubi cosa c'è dentro, cioè i macchinari. Insomma, questo e la succede, pelle. Questo succede, come ci diceva Oscar, da qui le ronde di cinesi. Perché l'ordinamento a parte costituito non riesce a esercitare, cioè quello cinese in Italia non riesce più a costituire l'esercizio della sovranità e lamenta che la sovranità precedente, che aveva nel frattempo scalzata quella italiana, non ci riesce neanche lei. Una bella gara di fallimenti ordinamentali. Intanto noi ringraziamo il professor Luca Ricolfi, grazie, così come Lorenzo Falchi, che è il sindaco di Sesto Fiorentino e di Sinistra Italiana, grazie per essere stati con noi. Oscar, ci dobbiamo buttare nel pronostico, tu lo sai. Ci dobbiamo buttare nel pronostico. Beh, tu sei in onda anche oggi pomeriggio, domani mattina puoi farlo, puoi pensarci che, fino a lui. Ma pensa che stanno lanciando un nuovo veicolo per salvare le banche italiane, si chiama Giasone. Sai come morì Giasone? Morì schiantato nella nave, il veicolo delle sue imprese. Ma qualcuno ci pensa a queste cose? No, il pronostico facciamolo naturalmente, siccome questa è una battaglia non calcistica, questa Italia-Germania, però Conte e i suoi la faranno sul campo di calcio. Allora, io dico 1-0 Pelé, così proprio al massimo. Pelé significa per loro? Pelé. Ah no, Pelé. È un giocatore, ma di che nazionale è Pelé? Dai. Mi associo, vinca il migliore. Chi è il migliore però? No, speriamo di no. Stai dicendo che non è l'Italia il migliore? Dai, ma non è vero. Dai. Conte, guarda. Conte, oramai si parla di Conte per guidare le prossime elezioni in Italia. Vedrai, se vince la Germania, gli perdoneranno anche di non vincere la finale. Sì, dai, finisce così, dai, ce la fanno. Va bene, chissà. Sono in onda oggi pomeriggio che domani mattina, anzi domani mattina per 2 ore parliamo proprio del sistema del calcio italiano e tedesco per vederne i cosi positivi e negativi, non solo economici, ma il seguito tra i giovani di calcio, ci per credo esempio proprio. Ciao. C'è anche sabato, urliamolo insieme Oscar. C'è anche sabato.